recuperando il microfono. Eia, sto bene? Tutto bene, fermo dove dite, sempre stazionario, antenna non ne posso piazzare, finché non trovo quel delinquente. Sempre in rotta, non prende ragione, no? Se non si fa vedere, non si fa trovare. Io volevo prendere la buona, se no mi tocca spendere un sacco di soldi. Mi tocca spendere. Perché bisogna che mi compri una scala da 6 metri almeno e costa un botto di soldi. Io non credo. È un bel 6 metri, sono già due piani. Lui che sarebbe, come dici tu, piglia la lavona. Che ci sono, lì sono. Ma se mi fa spendere quei soldi dovrei fuggire da Sassari, lui, te lo dico io che fugge. Non solo dall'appartamento, da Sassari, non lo devo più vedere in Sassari, perché se lo vedo in Sassari è fuggito. Oh, la buona antenna, non è possibile, ragazzo. Che gente, che dite oggi? Oh, yeah. Ne mangiano e ne fanno mangiare questi qua. Infatti è proprio così. Ognuno. E poi lui è anche bugiardo, perché lui mi ha detto che il padrone non voleva. Beh, ho trovato il padrone di persona, il padrone non ne sapeva nulla, c'ho il permesso del padrone. Perché lui non è padrone di casa, è affittuario. Beh, una riunione in treno, riuscite a trovarvi tutti e tre e vi mettete d'accordo, visto che insomma siete in due che volete. Oppure cosa vuol dire? Tu metti in mezzo la sicurezza, che secondo te non è sicura l'antenna? Perché oggi la sicurezza è molto importante, che la devi portare giù per sistemarla e nel caso cambiarla se non è in condizione di rimanere lassù. Dici che c'è pericolo, che può cadere giù. Magari si sblocca qualcosa. No, oh, e lui che non vuole neanche il palo, vuole toglierlo addirittura, e ci vuole lui per tagliare le corde che la tengono, capito? Là? E dice solo che non si fa di vedere il suo passaggio. Oia, vabbè, là. Sorvoliamo, che è meglio, che sono sempre nervoso per colpa di questo qui. E alla fine poi ci rimette la salute, bene o male, diciamo, già io ti sento, gli altri ti sentono, certo, non arriviamo lontano, ma ci accontentiamo. Cosa devo dire? Non la puoi mettere da nessun'altra parte, nessun'altra facciata, no? Dietro ancora, non hai altri punti? No, negativo, non posso fare nulla. Cosa vuoi che ti dica? C'era anche il muratore che ha aggiustato il tetto, che me la voleva mettere sul tetto, ma non si è fatto vedere. Sarebbe ideale, che poi una volta che su non ci puoi più salire così. Infatti. È un casino, siamo messi male. E vabbè, io meno male ce l'ho dalla finestra, io mi affaccio, la tolgo. Ieri l'ho tolta, ne ho provato un'altra, l'ho rimesso quella lì. Insomma, sono più libero di te, dai. Io devo mettere una X30, poi devo mettere quello che sto usando per il ricevitore, piccolina, ve l'avevo fatta io, e più la Game Master nel palo. Si tratta di un'ora e mezza, 2 ore di lavoro, se tutto va bene. Infatti, non ci vuole di più. È il fatto che se mi tocca metterla con le due scale, mi tocca cambiare il palo, comprare il palo nuovo, le staffe, perché la metto in un altro modo, in modo che ne scenda da sola l'antenna e posso fare tutto da solo. Insomma, non ne mancano mai, grazie. Invece il palazzo di fronte di chi è? Di altra gente. E a provare a chiedere a loro? No, non fa. Ti spieghi un po' com'è la situazione? È così. Tanto cosa gli cambia loro? Più o meno le facciate sono le stesse? O sono come sono fatte? Sono rifinite infine? Come sono? No, è diverso, è tutto diverso. Ma cosa voglio dire? Di capire la provenienza del suo coltello. E vediamo di trovare una soluzione. Certo, se mi fa spendere i soldi per comprarmi la scala, perché ce ne vogliono due di scale da 6 metri, una ce l'ha un amico mio e una la devo mettere io. Capito? Per essere in due a livello del piano di quello lì, per mantenere il tubo, per farlo scendere piano piano. Visto non avere fretta, aspetta Mario, qualche altra scala sbuca fuori, non conviene prenderla la scala, perché poi quelle altre costano, quanto mi hai detto, 200 euro o più? Ma ne ho 250 euro una scala, Guccia. Cazzo, non basta venire un'antenna, un'altra antenna piace, no, basta, altri due quasi. Con tutti i soldi del vostro, altro che quello, solo la scala costa 250, poi ci vuole altra cosa. Aspettiamo un po' mai che si calmino le acque. E quindi, queste leggi allora non valgono a niente, che uno ha diritto all'antenna, Ma questo è un delinquente, ignorante e scemo pure. Non hai capito. Ci si raccia un gatto dove sta a pezzi. No, lì sbagli, tanto è inutile. Come si dice, quando fa la guerra con uno scemo, vince lui perché ti batte con l'esperienza, capito? Ma cosa batte con l'esperienza? E il fatto che questo c'è anche il vizio del coltello, mi tocca uscire armato, mi tocca uscire. No, meglio evitare, non è... la vita è più importante. Ripeto, non sei neanche messo male, come senza antenna, qualcosa ce l'hai. Almeno riesci a parlare con qualcuno. È un casino. Sì, riesco a parlare. Quando riesco a parlare? Perché se piove non posso più parlare, perché mi servono le stazioni da 2,5, che si riempie d'acqua l'antenna. Io la voglio cambiare per quello, senza il fatto che disturbo pure. Voglio mettere la Game Master per non disturbare. C'ho il palo da 4 metri che se ne sta ridendo dentro il portone, per attaccare l'antenna più in alto. Ah, l'hai preso poi quel palo? E certo che l'ho preso. E da infilare su questo palo, ne lascio un metro dentro e rimane almeno 3 metri fuori dal tetto, capito? Ho capito. Ah, non c'è, no, non l'hai preso a piedi, no? No, me l'ho fatto portare da un camioncino. Ho pagato pure per quello, lì. La giusta, andiamo a piedi, c'è una passeggiata, ma... lì ci sono altri problemi, dai. Bene, bene, speriamo che si evolva nel migliore dei modi, però state tranquilli, tanto non risolvi niente. Bisogna trovare il momento giusto che sia tranquillo, magari. Vedrai che me la paga quella. Neanche l'altro, ma quello che c'è di fronte, neanche loro hanno un tetto accessibile. Penso di sì, ma di fronte ci pare che vado lì a... No. Io non so che rapporti hai, ma se allora non gli costa nulla, la metti sul tetto e poi ti cali il cavo e buh. Già lo so, ma non lo fa, poi se il padrone di quella palazzina non fa, dai. Infatti, dipende dai rapporti come sono, se c'è confidenza, se c'è... Insomma, vedilo tu, dai, era un'idea anche quella, per evitare il problema del tuo vicino di casa. E tutto perché non vado d'accordo con i miei fratelli, se no me ne sarei salito in campagna, cazzo, c'era Mantova 5 sopra 12 metri di palo che se ne sta ridendo. Allora, devi deciderti, ti devi alleare con qualcuno. E c'ho la multibanda sopra un altro palo da 10 metri, c'ho in campagna, è tutto lì, c'ho le antenne, c'ho tutto, c'ho l'X300, c'ho un'altra antenna VHF, cazzo, qua. Insomma, sto mangiando un pezzo di zenzero, per combattere un po'. Perché io lo so poi che non mi controllo, se se lo vedo, ragazzo, lo crepo, a chi va? Ma sono incavolato come una belva. E gli assistenti, allora, non ti fa bene Natalia, purtroppo, voglio trovare una soluzione, arrabbiati, incazzati, non risolvi nulla, bisogna studiarla meglio. Già lo so, cazzo, la chiamata è pronta a piazzare, la velocità segnata, dove devo entrare i cosi, i tubi proprio a misura, va. Tutto la X30 è già piazzata, pronta a piazzare. Non è quello, quello ti dà fastidio, sì. C'è il colpo in canna e non riesce a sparare. Oh, via, bel casino. Tutti, ho preso le corde per mettere due tiranti, un'altra corda e una carrucola per servirci un di polo da terra. Aspetta un attimo, vabbè, là, ti saluto, ti faccio gli auguri perché c'è gente a pranzo oggi, ci sentiamo alle prossime, là. Dai, auguri ancora, un abbraccio, un bocca al lupo e buona fortuna per tutto, dai. Speriamo bene. Ciao, ciao. Hola, chicos. Che carino, vero? Aumentarla ancora? Aumentala un altro po'. Prova a parlare. Attenzione, mi senti adesso? Come mi senti? Aumentato un troppo di radio. Perfetta, è perfetta. Radio 5, perfetta. La tua, Antu. La tua, Antonio, modulazione. E a me mi senti più basso di Antonio? No, adesso hai sollevato anche tu la modulazione. Prima eri più basso di Antonio. KK, quindi va bene, segnare quello di Antonio non cambia niente, così è. Tu sei piccolo, basso e nero, hai capito? Lo so che sono piccolo, basso e nero. Non tu Franco, buongiorno. Buongiorno Marco. Non sono Marco, sono Tino, buongiorno. Ciao T, buongiorno. No, sono a casa di Antonio che mi ha chiamato che aveva un problemino con la radio, gli ho fatto due tarature. E volevo sapere appunto se stava andando bene, ok? Ma sì, no, adesso va bene. Claudio! Ehi, a te. Buongiorno, a me mi già ascolti? Ehi, a voi ti ascolto. Penso che non l'avevi sentito, Sono col mezzo, vai. No, ti ascolto, alla grande. Santiago 7, Radio 5. Ah, ho capito, va bene, dai. Vabbè, vi lascio, dai, sono entrato a salutarvi, ciao, divertitevela. Ascoltati, la mia radio va bene? È la mia? Ti rendi conto che sono con 48, è proprio uguale. Va bene, dai, se sei in macchina, però Franco già è a casa, quindi dovrebbe essere tutto a posto, dai. Ok. Va bene, ciao a tutti, Franco, riprenditela. Caffa, ciao Tino, e buon anno, anche se secondo giorno. Vabbè, altrettanto. Caffa. Antonio. Ehi, dimmi, Fra. Cazzo, c'è una bella modulazione, cioè, come sempre. È forte anche adesso, Caffa, dai, sono contentissimo. Caffa. Segnale 8 e Radio 5. Caffa, sì, no, già va bene. Caffa, la grande. Eia. Controllo cosa c'ha la gola. Stavo cantando, Fra, capito? No, non sto bene in questi giorni, siamo un po' tutti incasinati a casa. Questo tempo balordo ci ha un po' colpito, dai. Un po' alla gola, mia moglie un po' alle ossa qui e là. Però già va bene, dai, ok? Cappa del Rogero! E che radio state usando? Sempre il 44 di Antonio, gli ho fatto un paio di regolazioni. Perché c'aveva il microfono che a volte usciva o non usciva, capito? Capo. E vabbè, comunque sta andando bene, nessun problema. No, la radio già è a posto, è tutto ok, non problema. Chiama! Vabbè Claudio! Oi Franco, cazzo mi segnale che fai in oggi, buongiorno. Io sono tu, buongiorno. La radio comunque non è la tua, ma è un microfono normale. Certo. La radio non è la mia, ma state scherzando davvero o che cosa? Allora, così è senza processore. Così è col processore inserito, ma state scherzando? La tua è, non so, è più forte, la tua è proprio possente come voce. Quando parla invece, quando parla Antonio, che saluto, forse si avvicina di più, non lo so, è più forte quella di Antonio. Buongiorno Franco. Antonio è più squillante, è più penetrante. Saluto anche Franco da Sorso, e anche che ma non mi viene adesso. Chi è, c'è in baramobile? Caffa. Ciao Fra. Buongiorno e tanti auguroni. No, ci sono solo io, Tino ha mollato. Vedi che come ti dicevo io, Claudio. Sì, non è la sua voce che usa, diciamo, che è usuale da casa sua, dai. No, è un po' diversa, è più bassa, rimane qua. Non so perché, però perché lui con i cable è sempre... Ma qualsiasi cable che usa è sempre la stessa modulazione, non so perché quella. Sì, infatti pensavo fosse un mic normale, che Antonio avesse un mic normale. Avanti Claudio! Ehi, dai, lascio parlare a Antonio che ha la voce più squillante della mia. Io rimango un attimo in quel Ricky e poi me ne vado a casa. Ciao a tutti, buona giornata. Date controlli ad Antonio, che è importante Antonio, a me non mi interessa. La regolazione è per la sua voce, non per la mia, ok? Ciao a tutti di nuovo, vai Antonio, prendi tu. No, no, Antonio è sempre uguale, per me Antonio ha sempre la stessa modulazione, è solo la tua che è diversa su quella radio lì, dai. Per Antonio è ok, avanti Anto. Dai. Allora, frate, Abuccio. Che c'è Abuccio? E il resto, questi in cammino da contro barrio. Eia, io la vedevo lasciare un attimino e ci sentiamo dopo, ci sentiamo perché io devo fare delle cosette. Noi ci sentiamo dopo, ciao ciao. Eia, dai, l'importante è che funzioni tutto bene, dai. Salutoni ancora a Claudio, buon rientro, buon tutto, alle prossimine, un abbraccio a tutti. Avanti Franco. Ehi, cappa, ciao Antonio, ciao Claudio, ce la ascoltiamo alle prossimine. Cappa. E allora fra? E allora dai, iniziamo quest'anno, vediamo un po' come andrà. Sì, come andrà. Se non peggio, guarda quello là. Ma c'è qualcuno sotto, no? Ma speriamo, peggio di dietro non credo, dai. Allora andiamo a Marabria. Già ci vuole poco per migliorare questi ultimi 2 anni, dai. Basta poco. Speriamo che sia migliore. No, è che finita questa stronzata della pandemia. Il mio segnale è sempre uguale da te? Sì. Sempre uguale, va benissimo, bella radio forte e prepotente. No, ragazzo, io non... Vabbè, questa non è che l'ho smontata, praticamente è tipo ombrellone la mia, no? L'ho sfilata, l'ho appoggiata all'albero che c'ho di fronte. Praticamente l'ho coricata in piano tra la mia finestra e io sono al primo piano, dai. E un albero di fico che c'era, l'ho messa lì. E ne ho provato un'altra, adesso ho rimesso questa che mi sa che va meglio. Questa c'è quasi 9, mi qua. Caspita, il segnale arriva bene. Sì, è in ricezione che non riceve, non capisco perché. Fa meglio in trasmissione piuttosto che in ricezione. Qualche problemino deve avercela, buh. Cos'è? Sorda è? Sembrerebbe, cioè, i segnali che io ricevo sono sempre più bassi di quelli che io arrivo. Beh, io sto usando qualche cosina in più, però c'è troppa differenza. Beh, hai controllato dove c'è la bobina, se c'è qualcosa che non va. Ma l'antenna va bene, cioè tu non ha stazionario, non c'è niente. Bisogna vedere come risuona, capito? Come risuona. Come sta lavorando l'antenna? Ci vorrebbe uno strumento? Io qualcosa ce l'ho, però lo strumento devi anche conoscerlo, come accordarla bene l'antenna. Ah, ecco, sì. Vabbè, strumento, un accordatore si vede, riesce a accordarlo, non è che sia così difficile. No, l'antenna accorda bene, cioè non è stazionare, però non sai se sta rendendo bene, perché potrebbe essere, non so, resistiva o induttiva, adesso non sto dicendo fesserie, però con gli strumenti giusti ti accorgi se sta lavorando bene. È che tu metti un pezzo di fil di ferro e lo accordi lo stesso, deve stazionare, però non sta rendendo come dovrebbe. Sì, quello sì. La radio, vabbè. Ho sempre questa, non la tocco mai, è sempre spuntata come la prima volta, tutti i pomelli, però non più toccata da quando l'ho sistemata. Ma ce l'hai sul tetto, dai. Probabile che sia il problema per la mia perché è attaccata alla facciata, però perché a trasmette bene e a ricevere no? Non lo so, sono... come si dice... i problemi dell'etere. Capo, no, io ce l'ho qua, ho agganciato al muro della terrazza e ce l'ho su, ho 6 metri di palo e ci ho messo, che poi non sono più 6 metri perché 2 metri se li mangia al muro e va benissimo perché sono è molto in alto e va bene. La mia l'hai vista come sì l'antenna? Tu ce l'hai attaccata a quel fianco là. L'avevamo vista? Un po' buio era, però ho fatto qualcosa. Più o meno, dai, hai visto che cammina a fianco alla facciata, ha un palmo dal muro, e la punta arriva alla grondaia lì. Vabbè. Quella voleva molto più in alto, voleva. ho sempre la curiosità, chissà, ti viene sempre, no, da pensare, chissà come funzionerebbe lassù, messa bella sul culmine del tetto, lì con un bel palo magari. Io sono sicuro, guarda, sicuramente dalla posizione che sei, adesso vuol dire che stai arrivando quasi 9, un pelino a 9, ti manca. Primo arriveresti 9-10 qua, arriveresti solamente sul tetto proprio. Sicuramente. Non lo so, dai. Vedremo il futuro, dai. Ecco fatto. Va bene, fra, che c'ho l'aspirapolvere che mi ha dato problemi e gli sto saldando nei cavetti, gli sto saldando all'interno. Ma ci sentiamo. E a capo, dai. Buon anno ancora, buon lavoretto allora, buon passatempo. Alla prossima, ci aggiorniamo. Un abbraccio, ciao ciao. Ehi, ciao ciao. Tanti auguri a te, famiglia, anche un abbraccio, ciao. Grazie altrettanto, ciao ciao. Hola, hola. Chi è? Avanti, avanti, chi è? E tu chi sei? Antonio sono. Ecco, tu sei brutto. Perché sono brutto? Sei brutto, brutto, brutto, buonasera, buongiorno. Ehi, buongiorno anche a te, in campagna sì. Bene, giro in macchina, recuperare il bidone di acqua perché ho avuto un problema tecnico. Gaffa, che zona sei? Guarda, sono messo all'Agipo, sono a Budivudio, sono a Gasolio, perché di serata la pompa sommersa e non c'ho acqua a casa adesso. Gaffa, è un bello gasino. È un bello gasino, sì, penso 50 metri di tubo a tirare su me. La massa di nevare anch'io, a tante rogoggio. E noi siamo in quattro, infatti, va, sta tranquillo tu. Gaffa. Non ci vogliono, una persona tira sulla pompa, l'altra a tenerla, l'altra a tirare il cavo alla fune, e noi andiamo il cambio. E se non ti guarda la mazza, amica, sei poco pigiante. Lo so, ho già fatto, già 3-4 volte, lascia perdere. Succede, purtroppo succede. Dopo 15 anni mi sono rotta, ormai. Adesso c'è anche il al volo, lì ci sono a Mangasecco. Eia, ciao, dai, ci sentiamo. Eia, dai. Tieni, avanti. Hola, chicos. Hola, hola, oh, oh, oh. Altro ci sei? Attenzione, binario 10, K! Anto, prova! Ehi, Claudio, eccomi qua, mi senti? Sì, sei al radio. Mi sono appena ritornato dalle faccende, sono appena. Cazzo, mi auguro da in chi va a Corte Santa Maria. Ho comprato un po' di roba per casa. Ascolta, Anto, hai visto dove ho toccato il Mickey Game io, quel pomellino nero? Non dove c'è i cosi, quello grigio, quello nero, che mi sembra che sia a 3 l'avevamo messo, giusto? Cappa, sì, già lo conosco, è uguale a quello là. Eia, ascolta, aumentalo appena, a 3,5, prova. Vuoi vedere ora com'è? Asciuga, lasciala così, Anto, lascia. Lasciala così, va bene. Il segnale com'è? Buono, eh. Il tuo, 9 più 15, modulato 9 più 20. Allora già andava bene, abbastanza bene, capa. Mettiamo dentro le cose. Mi ha giudata. Guarda che c'ho. Ha già fatto appena la luce a cavare. Andare da Corte Santa Maria ai nobili. Abbiamo 4-5 cose di roba. Va bene. Ottimo per la truppa, tu. Va benissimo alla grande. No, io ti sto ascoltando col 140 e stai andando bene. Beh, la regolazione che abbiamo fatto è ottima. Va bene. Gaffa, va bene, sì, quando è a posto, se è regolata bene, funziona bene, no? Gaffa. No, sono contento, la verità, Beh, tranquillo. Tu, quando hai qualche problema con quelle radio, chiamami che io già te la metto a posto, non ti preoccupare. Gappa. Sì, appompa, va bene. Segnale ultimo, la radio è bella adesso, Prima era troppo impazzatami. Questa è più bella. Veramente? Sì, lascia dubbi, diciamo che te l'ho detto anche Franco. Molto bella la radio, veramente molto bella. Più limpida, più limpida, più corposa e più limpida. Capo, già si sente, non è che io mi senta, però. Ah, è male meglio. E nulla, le cose di prima sono migliori. Io dico, andrebbe. Puoi aumentarla anche ancora la radio, secondo me. Mettilo a 4 anziché a 3. A 3 e mezzo, mettilo a 4 il Mickey Gay. Aspetta. Guarda ora a vedere com'è. Bella, va bene. Non facevi con l'altro che aumentavi troppo fra palla. È lì il difetto, è lì il problema, capito? Che quella non strappa, quella cosa lì non strappa. Ti porta la radio alta ma non strappa, tu capito? Capa, ma c'è qualcuno sotto, chi è che vuole entrare? Avanti! No, la tua propagazione è uno in FM, ma a te non ti fa niente. Ma già me ne sono accorto, c'era qualcuno. Gappa, già va bene. Gappa. È troppo ghizzo a magnassa, che ore sono? No, sono scattate quello che devo fare. Mi fai che scatoletta di sonno, non aggiungala di far nulla. Va bene, tu dai, invece io devo preparare il mangiare a Filippo. Lascia stare tutto così e ci sentiamo dopo, ok? Gappa, non c'è problema. Dico che mi piace. La radio è molto più corposa, l'altra era un po' più bassata. Questa mi piace di più, vabbè, sarà, puoi sentire anche quello che ti dicono gli altri, ma secondo me la regolazione è quella. Gappa, no, è bella veramente, non mi piace, poi. Vabbè, io te l'ho detto, no, cosa devi fare tu? Quando mi dai l'ok, io vado avanti, se no rimaniamo come siamo rimasti d'accordo. Cosa ti stavo dicendo? A me come mi ascolti bene? Perfettamente bene. Bella modulazione, no? Senti bene la ricezione, la senti bene adesso? A voglia. Ok. Va bene. Lascia tutto acceso, ci sentiamo dopo. Ok, che va a mangiare il cane. Gappa, dai, non c'è problema. Ok. Avanti su 10. Sei basso sei qua.